Terzo anello, ad alta voce, L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. E così, Jim, incominciò con tristezza il dottore, eccoti qui. Si raccoglie quel che si è seminato, figliolo mio. Lo sa Dio se ho in animo di rimproverarti, ma questo almeno te lo devo dire, bene o male che suoni. Quando il capitano Smollett stava bene, non hai osato scappare. Quando stava male, e non poteva impedirtelo, per me è stata una bassezza bella e buona. Devo confessare che a questo punto mi misi a piangere. Dottore, dissi, potete risparmiarmi. Mi sono rimproverato abbastanza da me. La mia vita è ormai condannata e sarei già morto se Silver non avesse preso le mie difese. E credetemi, dottore, morire saprei e riconosco di averlo meritato. Ma quel che temo è la tortura. Se arrivano fino a torturarmi... Jim, interruppe il dottore, e la sua voce era completamente mutata. Jim, questo non lo posso sopportare. Salta da questa parte e fuggiamo. No, replicai. Sapete perfettamente che voi non lo fareste, dottore. Né voi, né il cavaliere, né il capitano. E nemmeno voglio farlo io. Silver si è fidato di me. Gli ho dato la mia parola. E ritorno con lui. Ma, dottore, non mi avete lasciato finire. Se arrivano a torturarmi, può darsi che mi lasci sfuggire qualche parola sulla posizione della nave. Perché io ho preso la nave, un po' con la fortuna, un po' col rischio, ed è arenata nella baia nord, sulla spiaggia di mezzogiorno, quasi a livello dell'alta marea. A mezza marea dovrebbe essere tutta fuori e a secco. La nave, esclamò il dottore. Rapidamente lo ragguagliai delle mie avventure, che ascoltò, mantenendo il silenzio. «Silver!» chiamò. «Silver! Vi darò un buon consiglio!» continuò quando il cuoco si fu avvicinato. «Non abbiate troppa fretta di trovare quel tesoro!» «Certo, signore, io faccio il possibile perché sia così!» disse Silver. «Soltanto... scusatemi, ma se permettete non posso salvare la mia vita e quella del ragazzo che mettendomi alla ricerca del tesoro.» «E allora, Silver», riprese il dottore, «stando così le cose farò ancora un passo più in là. Attento alle baruffe, quando lo troverete.» «Signore», disse Silver, «per parlarci da uomini, questo è insieme troppo e troppo poco. Se non volete spiegarmi apertamente qual è il vostro piano, ditelo, e io abbandonerò il timone.» «No», disse il dottore evasivo, «io non ho il diritto di dire una parola di più. Non è un segreto mio, vedete, Silver, altrimenti in parola d'onore ve lo direi. Ma con voi andrò più lontano che posso, e un passo oltre, perché se non sbaglio la mia parrucca dovrà fare i conti con il capitano. E in primo luogo, Silver, voglio darvi un filo di speranza. Silver, se usciamo vivi tutti e due da questa trappola, farò del mio meglio per salvarvi, salvo giurare il falso.» Il viso di Silver era raggiante. «Non potevate dirmi di più? Ne sono certo, nemmeno se fosse stato mia madre!» gridò. E il dottor Leeds mi strinse la mano, attraversò la palizzata, fece a Silver un cenno di saluto e si inoltrò nel bosco, di buon passo. «Jim», disse Silver quando fummo soli, «se io ho salvato la tua vita, tu hai salvato la mia, e non me ne scorderò. Ho visto che il dottore ti incitava a scappare, l'ho visto con la coda dell'occhio, e ti ho visto dire di no, chiaro, come se ti sentissi. Jim, questo è un punto per te. È stato il primo barlume di speranza che ho avuto dopo l'attacco fallito, e lo devo a te.» In quel momento uno degli uomini ci annunciò dal fuoco che la colazione era pronta, e presto ci trovammo seduti, chi qua e chi là sulla sabbia, davanti a biscotti e lardo fritto. «Ah, sì, compagni, è una fortuna avere barbecue che pensa per voi, con questa testa qui. Quel che volevo l'ho avuto io.» Così andava vociferando con la bocca gonfia di lardo bollente, e così ristorava la loro speranza e fiducia, e ne ho più che il sospetto, ristabiliva in pari tempo la propria. «E quanto all'ostaggio», continuò Silver, «questo è stato a parer mio il suo estremo colloquio con quelli a cui vuol tanto bene. Una volta in possesso di nave e tesoro e di nuovo per mare da allegri compagnoni, allora ce la discorreremo col signorino Hawkins. Sì, signori! E gli daremo quanto gli spetta, statene pur sicuri, in cambio di tutte le sue cortesie!» Non c'era da stupirsi che tutti gli uomini fossero adesso del miglior umore. Dal canto mio, ero terribilmente abbattuto. Se il progetto che ora aveva abbozzato si fosse dimostrato realizzabile, Silver, già due volte traditore, non avrebbe esitato ad adottarlo. Teneva tuttora il piede in due staffe e non vi è dubbio che avrebbe preferito libertà e sicurezza con i pirati al semplice scampare alla forca, che era il meglio che potesse sperare da parte nostra. Inoltre, quando anche le cose si fossero messe in modo da costringerlo a mantenere la parola data al dottor Livesey, anche allora che pericoli avevamo davanti! Che momento quello in cui i sospetti dei suoi seguaci si fossero mutati in certezza e lui e io ci fossimo trovati a doverci battere per la vita. Lui uno sciancato e io un fanciullo contro cinque marinai forti e risoluti. Si aggiunga a questa doppia apprensione il mistero che ancora circondava la condotta dei miei amici, il loro non spiegato abbandono del fortino, la loro inspiegabile cessione della carta, o ancora più arduo da capire, l'ultimo avvertimento a Silver: attento alle baruffe quando l'avrete trovato. E vi sarà facile comprendere quanto poco gusto trovassi nella mia colazione e con che animo perplesso mi mettessi al seguito dei miei carcerieri in cerca del tesoro. Io avevo una corda legata intorno alla vita e seguivo docilmente il cuoco che teneva il capo della fune, ora nella mano libera, ora tra i suoi fortissimi denti. Mi portavano proprio in giro, come l'orso che balla. Ci mettemmo tutti in cammino, anche quello con la testa fasciata, che avrebbe certamente fatto meglio a rimanere tranquillo, e ci dirigemmo uno dietro l'altro verso la baia, dove ci aspettavano le due scialuppe. Anche quelle portavano le tracce dell'ubriaca follia dei pirati. Una aveva un sedile rotto, ed entrambe erano sporche di fango e non vuotate. Dovevamo portarcele dietro tutte e due per maggior sicurezza, e così, ripartiti tra l'una e l'altra, ci indirizzammo al centro dell'ancoraggio. Mentre remavamo, nacque qualche discussione a proposito della carta. La Croce Rossa era indubbiamente molto troppo grande per costituire una guida, e i termini della nota a tergo, come vedremo, risultavano piuttosto vaghi. Dicevano, come ricorderà il lettore, «grande albero, contrafforte del canocchiale, direzione nord-nord-est, quarta a nord». Isola dello scheletro, est-sud-est, quarta a est, 10 piedi. L'indicazione principale era quindi un grande albero. Ora, proprio di fronte a noi, la baia era chiusa da un altipiano, alto da 2 a 300 piedi, che si raccordava a nord con il declivio del contrafforte meridionale del Cannocchiale, per poi rialzarsi verso sud nella scoscesa e aspra sommità della montagna dell'Albero di Mezzana. L'altipiano era fitto di pini di diversa altezza. Ogni tanto qualcuno di specie differente si ergeva 40 o 50 piedi al di sopra dei vicini, e quale fosse quello speciale grande albero del capitano Flint non si poteva decidere che in loco e adoperando la bussola. Non di meno, quantunque le cose stessero così, ogni uomo a bordo si era già scelto il suo albero favorito prima che fossimo a mezza strada, mentre Long John scrollava le spalle e ordinava loro di stare tranquilli finché non ci fossero arrivati. Vogavamo lentamente su ordine di Silver per non stancare la ciurma prima del tempo, e dopo una traversata piuttosto lunga approdammo alla foce del secondo torrente, quello che precipitava per un burrone boscoso dal Cannocchiale. Di lì, piegando a sinistra, cominciammo a salire l'erta verso l'altipiano. La brigata si sparse intorno a ventaglio, schiamazzando e saltando qua e là. Verso il centro e a buona distanza dal resto seguivamo io e Silver, io impacciato dalla mia fune, lui arando ansimante la ghiaia che gli scorreva sotto. Di tanto in tanto, a dire il vero, mi toccava dargli una mano, altrimenti gli sarebbe mancato l'equilibrio e sarebbe ruzzolato giù per la china. Avevamo così percorso circa mezzo miglio e stavamo avvicinandoci al ciglio dell'altipiano. quando l'uomo di punta più lontano, sulla sinistra, si mise a urlare come colto da terrore. Un urlo dietro l'altro ci giunsero da lui, così che gli altri si misero a correre nella sua direzione. «Non può aver trovato il tesoro!» disse il vecchio Morgan, affrettandosi per oltrepassarci sulla destra. «Perché il tesoro è certamente in cima!» In realtà, come constatammo quando arrivammo anche noi a quel punto, si trattava di ben altro. Ai piedi di un pino colossale e mezzo avvolto in un rampicante che aveva anche in parte sollevato le ossa più piccole, era disteso sul terreno uno scheletro umano con ancora qualche brandello di vestito. Io credo che sul primo momento un brivido scotesse ogni cuore. «Era un marinaio!» disse George Merry, che più coraggioso degli altri si era accostato e stava esaminando i brandelli del vestito. «Questo almeno è panno di marina!» «Mi è germogliata un'idea nella mia vecchia capa», osservò Silver. «Ecco qui la bussola, e là la più alta punta dell'isola dello scheletro che sbuca fuori come un dente. Rileviamo un po' il punto lungo la linea di queste ossa». Così fu fatto. Il corpo puntava dritto in direzione dell'isola e la bussola dava proprio est, sud-est, quarta a est. «Me l'ero immaginato!» gridò il cuoco. «Questo qui è un segnale indicatore! Dritto a questo passa la nostra via per la stella polare e i dollari sonanti! Ma per la galera, sapete? Sapete che mi sento un ghiaccio per la schiena a pensare a Flint? Questo è uno dei suoi tiri birboni, non c'è da sbagliare! Lui e quei sei erano soli qui, lui li ha uccisi tutti, e questo lo ha issato quassù e orientato alla bussola per tutti i diavoli! Era di ossa lunghe e di pelo biondo. Ah, doveva essere Allardyce! Ti rammenti di Allardyce, Tom Morgan?» ma sì, rispose Morgan. «Mi doveva dei quattrini, mi doveva, e si portò a terra con sé il mio coltello!» «A proposito di coltelli», disse un altro, «perché non si trova quello del morto per terra qui intorno? Flint non era uomo da frugare un marinaio, e gli uccelli direi che non dovrebbero averlo beccato!» «Per la galera, anche questa è giusta!» gridò Silver. «Non c'è rimasto un filo qui», disse Merry, che continuava a frugare tra le ossa. «Non uno spicciolo, né una tabacchiera. A me non sembra naturale». «No, no che non lo è, boia di un mondo!» convenne Silver. «Non è naturale, e tantomeno bello, direte voi, maledizione! Ma se fosse vivo Flint, cari miei, qui la terra ci scotterebbe sotto i piedi, tanto a voi che a me! Sei erano quelli, e sei siamo noi! E non sono più che ossa a quest'ora. La paura fa 90. Sotto a cercare i dobloni!» Ripartimmo. Però, malgrado il sole cocente e la luce abbagliante, i pirati non continuarono a correre divisi e urlando attraverso quel bosco, ma si strinsero uno accanto all'altro, parlandosi a sussurri. Il terrore del filibustiere morto si era abbattuto sui loro spiriti. Un po' per l'influenza deprimente di quell'allarme, un po' per far riposare Silver e i malati, tutta la brigata si mise a sedere non appena toccato il culmine della salita. Silver, seduto, si faceva alcuni rilievi con la bussola. «Ci sono tre grandi alberi», disse, «tutti e tre all'incirca sulla perpendicolare dell'isola dello scheletro. Contrafforte del canocchiale, vedo, significa quella cresta più bassa laggiù. Ormai trovare il morto è un gioco da ragazzi. Avrei una mezza idea di mangiare prima». «Non ho appetito», borbottò Morgan. «Deve essere stato il pensiero di Flint a farmelo passare». «Allora, ragazzo mio, puoi ringraziare la tua stella che sia morto», disse Silver. «Era brutto come il demonio», disse un terzo pirata con un fremito. «Quel blu sulla faccia ci mancava». «Così l'aveva ridotto il rum», disse Merry. «Blu? Beh, ammetto che fosse proprio blu, proprio così». Thank you. da quando avevano trovato lo scheletro e battevano su quel tasto, avevano cominciato a parlare sempre più sottovoce e avevano finito quasi per bisbigliare, così che il suono delle loro parole interrompeva appena il silenzio del bosco. E tutto a un tratto, dal folto degli alberi di fronte a noi, una voce sottile, acuta e tremula intonò le parole e l'aria ben nota. 15 uomini, 15 uomini, sulla cassa del morto, io, io, e una bottiglia di rum. Non ho mai visto uomini più follemente atterriti di quei pirati. Dai loro sei visi scomparve per incanto ogni colore. Qualcuno balzò in piedi, qualcuno si afferrò ai compagni. Morgan si dibatteva per terra. «E Flint! Corpo di...» gridò Merry. Il canto cessò all'improvviso, come era incominciato. Troncato, avreste detto, a metà di una nota, come se qualcuno avesse posato la mano sulla bocca del cantore. Attraverso le chiome verdi degli alberi, a me era parso vivace e dolce, e il suo effetto sui miei compagni mi parve più strano che mai. «Su via!» disse Silver, sforzandosi per far uscire le parole dalle sue labbra fattesi livide. «Così, così non va. Andiamo avanti. Questa è un'uscita bizzarra e non riesco a identificare la voce. Ma è di qualcuno che ci prende in giro, qualcuno in carne e ossa, ne sono sicuro!» Il coraggio gli era ritornato parlando e con il coraggio un po' di colorito sul viso. E già gli altri avevano cominciato a dar retta al suo incoraggiamento e stavano un po' riprendendosi quando la stessa voce ruppe di nuovo il silenzio, non cantando questa volta, ma con un flebile richiamo da lungi che si ripercosse ancor più fievole fra le gole del canocchiale. «Darby McGraw, porta poppa in rum, Darby!» I filibustieri rimasero inchiodati al suolo, gli occhi fuori dalle orbite. Assai dopo che la voce si era dileguata, fissavano ancora silenziosi e inorriditi davanti a sé. «Sono state le sue ultime parole», mugolò Morgan, «le sue ultime parole su questa terra». Silver era tuttora impavido. Gli sentivo battere i denti, ma non si dava per vinto. Nessuno su quest'isola ha mai sentito parlare di Darby. Nessuno all'infuori di noi altri qui». E poi, facendo uno sforzo colossale, «Compagni!» gridò. «Io sono qui per far saltare fuori il tesoro e non mi lascerò battere né da Dio né dal diavolo! Non ho mai avuto paura di Flint quando era vivo e per la galera saprò affrontarlo da morto!» Ma non vi fu segno di una ripresa di coraggio da parte dei suoi seguaci. Piuttosto sembrava fosse in loro accresciuto il terrore da quelle empie sue parole. «Falla finita, John!» disse Merry. «Non ti mettere con uno spirito!» E gli altri erano troppo spaventati per replicare. Se la sarebbero svignata uno per uno se avessero osato. Ma la paura li teneva insieme e si stringevano a John quasi che il suo ardire li potesse sostenere. Lui, da parte sua, aveva ora represso ogni debolezza. «Spirito! Boh, può essere!» disse. «Ma c'è una cosa che mi intriga. C'è stata un'eco! Ora, nessuno ha mai visto uno spirito che avesse un'ombra. Ebbene, allora, che cosa dovrebbe farsene di un'eco, eh? Vorrei sapere. Questo non è naturale, davvero!» Questa ragione a me parve assai debole. Ma non si sa mai che cosa possa influenzare la gente superstiziosa. E a mia sorpresa, George Merry apparve assai sollevato. «Già, proprio così!» disse. «Tu hai la testa sul collo, John. Non si scappa. All'abordaggio, compagni, questa ciurma qui è su una rotta sbagliata, mi pare. E ripensandoci bene, somiglia sì alla voce di Flint, garantito, ma non era poi altrettanto squillante, dopo tutto. somigliava piuttosto alla voce di qualcun altro. Somigliava alla voce di Ben Gunn per la galera! Ruggì Silver. Tale e quale! Gridò Morgan, sollevandosi sulle ginocchia. Era Ben Gunn! Piero Baldini ha letto L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Riduzione Giovanni Piccioni. Regia Adelchi Battista. Coordinamento Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it